Vogliamo iniziare con una chiamata a una compagna della Val di Susa del gruppo Donne in Movimento che si sono incontrate domenica per parlare e preparare le iniziative per fine novembre. The second that I feel your safe hands reaching out for mine. Pronto? E dunque vi siete riunite l'ultimo domenica pomeriggio per parlare un po' delle iniziative che farete a fine novembre, questo? Dunque ci siamo incontrate come donne della valle insieme ad altre donne notav che sono venute anche da fuori dalla valle per cominciare ad organizzare insieme la giornata del 25 novembre, che è la giornata contro la violenza sulle donne, e che già l'anno scorso noi avevamo ricordato questa giornata insieme però al tema della violenza sulla terra, e quindi quest'anno volevamo riproporre questa iniziativa. Abbiamo fatto un'assemblea prima per allargare anche un po' la partecipazione, e sono venute fuori un po' di proposte che sono ancora comunque da valutare, però sicuramente arriveremo alla giornata del 25 novembre con un'assemblea fatta prima e con un sabba al cantiere che si è pensato di fare il 31 di ottobre, essendo anche una notte adeguata alle streghe, e comunque discussioni che si devono ancora tenere. La cosa importante, comunque la motivazione per cui cerchiamo di muoverci, è di anche attraverso le iniziative delle donne intanto riporre il problema del cantiere, di quello che succede in valle, e della militarizzazione in cui viviamo, della criminalizzazione di cui siamo oggetto ultimamente. Ormai insomma si parla del movimento notav soltanto in termini di violenza, addirittura si usa la parola terrorismo. Ecco, come donne non riusciamo assolutamente a star dentro schiacciate in questa situazione, e abbiamo sicuramente bisogno di far vedere la forza reale del movimento, che ha anche nelle donne insomma una rappresentanza non da poco, perché c'è una partecipazione molto concreta delle donne a questo movimento, e quindi utilizziamo anche quelli che sono i temi delle donne, ahimè, cioè la violenza, tutto quello che succede intorno al nostro corpo, purtroppo occupandocene anche poco, perché per noi che viviamo qui nella valle la prima cosa di cui dobbiamo occuparci è la lotta contro questa opera inutile e dannosa. Però non vogliamo e non dimentichiamo di essere donne, tra l'altro pur volendolo fare ce lo ricordano loro, perché quest'estate per esempio si è verificato un fatto molto grave al cantiere, cioè una ragazza è stata arrestata durante una delle passeggiate serali, degli assedi, ed è stata durante insomma il suo arresto è stata palpeggiata e insultata pesantemente dalle forze dell'ordine, sia nella veste di maschi o di femmine. E quindi sappiamo benissimo che cos'è la violenza, perché ce la viviamo, ce la siamo vissuta sui nostri corpi, sui corpi delle donne che vengono in valle a solidarizzare. Dunque è importante far sentire forte la nostra voce, e anche come specificamente come Donne in Movimento, un gruppo di donne qui di Bussoleno che ha fatto anche un appello che abbiamo cercato di far circolare anche per irrompere in quegli spazi dove di solito non veniamo ascoltati, cioè abbiamo ancora la speranza che magari gli ambiti femminili di tutte quelle che sono le situazioni organizzate, comunque i gruppi critici che ci aiutino insomma ad uscire da questo impasse, che si fermino i lavori a Piemonte e che si possa procedere a una soluzione di questa lotta, e non certo arrivare a quello che sembra essere in giro, cioè un'intera popolazione criminalizzata e magari repressa e messa in silenzio, perché insomma sarà dura, come diciamo qua. Un po' questo, se vuoi chiedermi qualcosa. No, mi sa che hai detto tutto. Comunque l'anno scorso è stata questa iniziativa, che comunque è stata molto bella, infatti si sente molto la vostra forza dentro il movimento, Sì, cercheremo anche quest'anno, insomma, tra l'altro abbiamo praticamente già quasi degli accordi con un gruppo di teatro romano, quelli del Teatro della Viscosa, che verranno a fare il loro spettacolo Notte avevo detto, che è molto bello. Io e un'altra compagna abbiamo avuto modo già di vederlo un paio di volte e ci fa piacere ospitare all'interno di questa iniziativa, insomma, persone, gruppi che si muovono sempre in solidarietà col movimento NoTav. Quindi è un'occasione anche per scambi che sono poi anche la base della crescita di questo movimento, la capacità che ha avuto, che ha, di rapportarsi anche con altre realtà e quindi a crescere i punti di vista e capire anche altre cose, confrontarsi con persone anche diverse da noi, insomma, la lotta fa crescere e penso che anche il protagonismo delle donne ne abbia tratto beneficio, ecco. La cosa che trovo anche importante è che la vostra presenza fa anche riflettere il movimento completo, intero, su sessismo, violenza alle donne, e questo mi pare molto importante. Sì, portiamo perché degli argomenti, insomma, che penso qui, cioè che qui hanno comunque la stessa difficoltà che hanno insomma anche negli altri ambiti, per quanto sicuramente la popolazione della Valsusa attraverso questa lotta ha fatto dei passi da gigante, sinceramente siamo molto avanti e comunque in più di 15 anni di militanza nel movimento non mi è mai capitato, per esempio personalmente, di avere disagio o per il linguaggio o per comportamenti all'interno dei presidi con gli uomini che ho incontrato e con cui mi sono confrontata durante la lotta, quando magari invece cose di questo tipo è più facile che magari mi siano successe in ambiti dove sembra, insomma, con ambiti, diciamo, che teoricamente si sentono più avanti, diciamo, nelle crescite e nella critica al sistema. Però sicuramente anche qua c'è bisogno di farli questi ragionamenti. Però io aggiungerei una cosa: non è che c'è bisogno di farlo solo per spingere gli uomini a farsi più domande, ma anche per spingere noi donne a farci più domande, perché penso che in parte noi poi siamo anche responsabili delle nostre azioni e anche della nostra emancipazione, quindi è un impegno che innanzitutto è per noi. Guarda, ti ringraziamo, veramente noi seguiremo comunque, speriamo sì, anche andare. Se vorrete partecipare ci farà piacere sì, anche a noi. Qui, qualcuna di voi. Sì, sì, certo, proveremo a venire e a spingere tutte le altre a venire anche loro. Va bene, vi ringrazio e dalla Valle sempre NoTav. Sì, sempre NoTav. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.